Cari amici, buongiorno, è Paolo Tenni che vi saluta dai microfoni di Radio 3 questa mattina di giovedì 6 ottobre e vi auguro una buona giornata, un buon ascolto dei nostri programmi. A partire da qui comincia il programma a cura di Elisabetta Parisi e di cui oggi vi conduco una puntata. Ieri parlavamo, forse qualcuno se ne ricorderà, di un testo straordinario di Emmanuel Levinas, la raccolta dei suoi frammenti. È stata un'esperienza meravigliosa sotto il profilo sia del stimolo così intellettuale, sia anche sotto l'aspetto così editoriale in senso stretto. E ci eravamo molto interessati ad alcuni aspetti del pensiero di Levinas che concernono lo sguardo. Oggi ho in mano un bellissimo volume di sorprendente eleganza e profondità che ha per titolo Caravaggio, Giordano Bruno e l'invisibile natura delle cose, con in copertina Amore vittorioso del Caravaggio e di Anna Maria Panzera, che è una straordinaria storica dell'arte, devo dire di capacità di pensiero molto più ampio di quanto di solito si pensi debba avere un critico d'arte, inteso proprio in senso molto specifico, molto settoriale. Questo saggio va a toccare argomenti fondamentali è edito dalla casa editrice L'Asino d'Oro. Nel Caravaggio di copertina, Amore vittorioso, che sta al Städtisches Museum di Berlino, quando sta lì, perché si sa quanto girano i Caravaggi in questo momento, basti pensare all'episodio cubano di recente, oggetto di recenti polemiche, insomma. Trasferire un Caravaggio fino all'Havana non è stata impresa facile, ma si sa che, lo potrete vedere nel nostro sito, questo Amore vittorioso è una tela in cui si raffigurano dietro al personaggio centrale uno spartito musicale e poi anche due strumenti che sono un violone e un liuto. E allora, dandovi, secondo la mia umile, come dire, impressione, conto della frase centrale di questo saggio, che è la seguente: l'immagine è l'unica vera e propria chiave del pensiero umano. E vorrei precisare, l'immagine insieme alla figura, che sono due cose distinte, concetto su cui Giordano Bruno insiste nel De Imaginum Signorum Ac Idearum Composizione del 1591 e che riscontreremo più avanti. Va bene, questo è un momento, così dire, un ganglio del insieme di concetti che vengono esposti e suscitati dalla lettura di questo saggio di Anna Maria Panzera. Ne parleremo dopo il primo ascolto. Siamo nel 1591, negli ultimi anni 90, e siamo anche a Roma. Non si può non ascoltare in questo caso uno splendido Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ho scelto il mottetto Sicut Lilium, come il giglio tra i rovi, così è la mia amata tra le figlie di Adamo. Alleluia. Sicut Lilium inter spinas, sic, amica mea, inter filias adae. Alleluia. Ascoltiamo questo splendido mottetto che ci conferma sempre l'imprescindibilità degli ascolti palestriniani nella interpretazione dei Thales Scholars diretti da Peter Phillips. Buon ascolto. Thank you. di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Abbiamo ascoltato Sic ut Lilium Interspinas, un motetto meraviglioso. Rimango sempre senza fiato quando ascolto Palestrina, perché veramente avevo la sensazione di giungere al centro del pensiero musicale occidentale e delle sue modalità, come un senso di scoperta costante della ragion d'essere della stessa musica. Ricevo due messaggi che sono interessanti. Il primo mi ricorda Proust, perché incomincia dicendo: sovente mi corico la mattina. Je me couche de bonne heure, sarebbe insomma la prima frase della Rochesse, e ringrazio, si tratta di Michele da Venezia. Così come una bellissima invettiva di Dario, che mi scrive: ma perché le più belle esecuzioni di Palestrina e Monteverdi sono dei Tallis e per l'Italia è una vergogna, perché siamo così rozzi? È una bella domanda, come si dice, non si sa cosa rispondere. Effettivamente questa esecuzione dei Tallis Square è splendida. Abbiamo in mano, si diceva, il volume di Anna Maria Pansera, edito dall'Asino d'Oro, che ha per titolo Caravaggio, Giordano Bruno e l'invisibile natura delle cose, che riprende quel tema dello sguardo che in qualche modo abbiamo trattato anche ieri attraverso Emmanuel Levinas. Questo volume è prefato da due grandi esperti. Il primo è Claudio Strinati, noto non solo critico d'arte ma anche musicologo, e che incomincia con una frase molto semplice: questo libro reca in sé, attraverso un costante e sempre motivato parallelismo, un'indagine storica e una filosofica. Anzi, per meglio dire, mira a far convergere i due ambiti di ricerca verso una soluzione capace di portare importanti chiarimenti all'interno di una delle questioni forse più dibattute dell'intera storia dell'arte italiana, quella inerente al pensiero e all'opera di Giordano Bruno, messi in rapporto con l'arte di Michelangelo Merisi da Caravaggio, indagata nelle sue più profonde motivazioni etiche, estetiche ed epistemologico. E l'altra prefazione è di un altro esperto d'arte, grande teorico dell'arte, che è Michele Ciliberto, che attacca dicendo: Anna Maria Pansera è una storica dell'arte, già nota per alcuni suoi contributi, ma è significativo che proprio nel corso del suo lavoro si sia imbattuta in temi e problemi di carattere filosofico. Questa congiuntura, questa congiunzione tra filosofia e pensiero sull'arte è che è veramente la chiave fondamentale di lettura di questo saggio. Non è sorprendente, aggiunge Michele Ciliberto, anzi è una conferma dell'intreccio nel periodo rinascimentale di parola e immagine, di pittura e filosofia, che poi all'individuazione di questo intreccio la Pansera sia stata indotta innanzitutto dai suoi studi su Caravaggio, questo è addirittura naturale. Ora, a questo punto vorrei anche darvi un'informazione, perché chi vive a Firenze o chi ci si trova a passare potrebbe assistere sabato, dopodomani alle 18.30, alla libreria Mel Bookstore di via dei Cerretani, alla presentazione di questo volume di Anna Maria Pansera, Caravaggio, Giordano Bruno, l'invisibile natura delle cose. Interverranno parecchi esperti, cito Mina Gregori come primo nome che viene formulato nell'invito. Detto questo, la prima cosa che colpisce nella conduzione di questo saggio è il virtuosismo citazionista, cioè veramente ha letto tutto Anna Maria Pansera, ma questo non basta, perché si sa quanto le citazioni possono essere pesanti esercizi di filologia, e qui invece intervengono come tasselli di un unico e originale pensiero sull'argomento trattato, che stimola ad andare avanti. Cioè ogni citazione è un fatto di per sé irradiante altro pensiero. A questo punto andiamo avanti con la musica, e siamo sempre nella fine del Cinquecento. L'ultima opera di Orlando di Lasso è un colossale ciclo di madrigali spirituali che ha per titolo Lacrime di San Pietro. Ho scelto l'ultimo, che è un mottetto: Vide homo quae Protepazior, che è incentrato ovviamente sull'idea di sguardo, che mi sembra importante. Ascoltiamo allora, in questo caso ovviamente, ascoltiamo l'ensemble vocal européen diretto da Philippe Hereweghe in questo mottetto di Roland de Lassus, Orlando di Lasso. Buon ascolto. Di Orlando di Lasso abbiamo ascoltato l'ultimo dei mottetti che compongono la grande raccolta intitolata Lagrime di San Pietro e che aveva per titolo Vide homo quae prote patior, e questo mottetto è una specie di, come se ci fosse, si parlava delle relazioni tra Giordano Bruno e Caravaggio, ma qui c'è da pensare anche alle relazioni tra Orlando di Lasso e Palestrina. Sembrano condurre un discorso estremamente interagente e quasi parallelo. Gli interpreti, anche qui eccellenti, sono l'ensemble vocal européen diretto da Philippe Herweg. Il tutto, si può dire a commento, no, per fornire un piccolo quadro di riferimento dell'area di riflessione che intride di sé tutta questo saggio di Anna Maria Panzera intitolato Caravaggio, Giordano Bruno e l'invisibile natura delle cose. Vi dicevo della capacità di citazione, della maniera addirittura virtuosistica, intelligentissima, con cui l'autrice elabora tutta una serie di stimoli, in che significa che è inserita nel pensiero che ella conosce, ma non lo cita come fosse una bibliografia, ma lo elabora, lo ingerisce, lo restituisce. Ma tutto questo ovviamente lo si può percepire solo alla lettura del testo, e mi posso limitare semplicemente a citare una citazione che mi sembra bellissima, ed è una citazione tratta da Leonardo. Ve la leggo. Il pittore è padrone di tutte le cose che possono cadere in pensiero all'uomo, perciò che se egli ha desiderio di vedere bellezze che lo innamorino, egli è signore di generarle, e se vuol vedere cose mostruose che spaventino o che siano buffonesche e risibili o veramente compassionevoli, ci ne è signore e creatore. E se vuol generare sui siti deserti luoghi ombrosi o freschi nei tempi caldi, esso le figura, e così luoghi caldi nei tempi freddi. Se vuol valli, il simile, se vuole delle alte cime di monti scoprire gran campagna, e se vuole dopo quelle vedere l'orizzonte del mare, egli ne è signore. E così pure se dalle basse valli vuol vedere gli alti monti, o dagli alti monti le basse valli e spiagge. Ed è in effetto ciò che è nell'universo, per essenza, presenza o immaginazione, esso lo ha prima nella mente e poi nelle mani, e quelle sono di tanta eccellenza che in pari tempo generano una proporzionata armonia in un solo sguardo, qual fanno le cose. Proporzionata armonia in un solo sguardo è stata, sin dagli avvii della polifonia, la preoccupazione dei grandi compositori. E qui c'è un testo di riferimento, siamo più indietro, siamo nel 200, con Perotalo Grand, Perotinus, e il suo organum, detto Viderunt Omnes. Ebbene, cos'è questo organum? È un tenor, cioè una sola nota, tenor, che chiamava, che osserva per tutto un processo l'evoluzione possibile della stessa nota, che però rimane presente. Quindi è come uno sguardo su quanto accade. E il Kronos Quartet ne ha fatto una trascrizione intelligentissima, ve la propongo, e così potrete seguire con la mente l'evoluzione del pensiero stesso. questa musica che è veramente incredibile per l'ostinazione, la tenacia e la capacità di immaginazione, era Viderunt Omnes di di Perotinus, nella trascrizione e nella, come dire, triangolazione filosofica che ne fa il Kronos Quartet. L'abbiamo un po' interrotto perché è una composizione molto ampia, però dà l'idea, ed è quella che, sulla quale mi piaceva insistere stamattina, visto che parliamo di sguardo, proprio di uno sguardo interno a una musica che procede. Il tenor, cioè questa nota tenuta che avete ascoltato a lungo, che non interrompe mai, donde proprio la parola tenor, fa parte integrante del sistema di Perotinus e del suo antecedente Leoninus, cioè che è chiamato organum, questa forma che contiene in se stessa una specie di auto-osservazione, ma che poi dell'osservazione, cioè dello sguardo, in musica parla. Riprendo in mano il saggio di Anna Maria Panzera, di cui sto parlando oggi, Caravaggio, Giordano Bruno e l'invisibile natura delle cose. Ricordo che è edito dall'Asino d'Oro e, come ho già precisato, è impossibile riassumere, e poi non ha nessun senso riassumere un saggio così libero, così fantasioso, così capace di spigolare, ma in senso profondo, tra altri atti di pensiero, citandoli, facendone nascere in maniera molto fertile nuove idee. Per esempio, ci sono delle considerazioni fondamentali sulla nozione di ombra e poi ovviamente anche sulla nozione di immagine specchiata. A proposito dello specchio, ricorda l'autrice nello specchio di Michelangelo, che è un sottocapitolo di un grande capitolo che ha per titolo, è uno degli ultimi, La forma dell'ombra, pittura, pensiero, immagine, questa citazione che mi sembra molto interessante, sempre di Leonardo: quando tu vuoi vedere se la tua pittura tutta insieme ha conformità con la cosa ritratta di naturale, abbi uno specchio e favvi dentro specchiare la cosa viva e paragona la cosa specchiata con la tua pittura e considera bene se il subietto dell'una e dell'altra similitudine abbiano conformità insieme. Che profondità! Soprattutto lo specchio si deve pigliare per maestro, intendo lo specchio piano, impero che sulla sua superficie le cose hanno similitudine con la pittura in molte parti. Cioè, tu vedi la pittura fatta sopra un piano dimostrare cose che paiono rilevate, e lo specchio sopra un piano fa il medesimo. La pittura è una sola superficie e lo specchio è quel medesimo. La pittura è impalpabile, in quanto che quello che pare tondo e spiccato non si può circondare con le mani, e lo specchio fa il simile. Lo specchio e la pittura mostrano la similitudine delle cose, circondata da ombre e lume, e l'una e l'altra pare assai di là dalla sua superficie. E se tu conosci che lo specchio, per mezzo dei lineamenti ed ombra e lumi, ti fa parere le cose spiccate, ed avendo tu fra i tuoi colori le ombre ed i lumi più potenti che quelli dello specchio, certo, se tu li saprai ben comporre insieme, la tua pittura parrà ancora essa una cosa naturale, vista in un grande specchio. C'è un'acrobazia mentale in questa citazione leonardesca che è veramente strepitosa, e sono felice di averla letta, e che questo è uno dei contributi più alti che ci dà questa storica dell'arte e filosofa Anna Maria Panzera. Ma non posso non leggervi anche alcuni versi rapidissimi di Giordano Bruno, tratti dai suoi Furori. Ne leggo proprio un inizio. Amor, per cui tant'alto il ver discerno, capre le porte di diamante nere per gli occhi chi entra il mio nume e per vedere nasce, vive, si nutre a regno eterno, fa scorger quant'al ciel terri d'inferno, fa presenti d'absenti effigie vere, ripiglia forze e col trar diritto fere, e impiaga sempre il cor, scuopre l'interno. O dunque, volgo vile, al vero attendi, porgi l'orecchio al mio dir non fallace, apri, apri se puoi gli occhi, insano e bieco, fanciullo il credi, perché poco intendi, perché ratto si ti cangi e par fugace, per esser orbo tu lo chiami cieco. Beh, anche qui non c'è da scherzare, era Giordano Bruno, e richiama, se vogliamo, indirettamente proprio il Caravaggio che abbiamo messo nel sito, che è la stessa copertina del volume di cui stiamo parlando, di Anna Maria Pansera, ossia Amore Vittorioso, che sembra proprio raffigurato dai versi di Giordano Bruno, e dove si vedono anche strumenti musicali di cui abbiamo già fatto cenno. Bene, cari amici, è giunto il momento di ascoltare la sonata di Domenico Scarlatti che ho in programma per oggi ed è la K151, un andante allegro in fa maggiore. in questa finta disinvoltura che è classica del gesto di Domenico Scarlatti non mancavano certo ombre e increspature ben curiose. E siamo sempre nel tema dell'ombra, tema che poi ritroveremo nell'ultima strofa del Lied di Mozart, che tra un secondo vi manderemo in onda, che è Anne Chloe, K524, con Eddie Ameling soprano e Dalton Baldwin al pianoforte. Ma vorrei salutarvi, innanzitutto ricordando che il programma è a cura di Elisabetta Parisi, che la regia di Edi Federico Vizzaccaro, in redazione di Claudio Vedovati, e oggi il tecnico è Luciano Panici. E questo Anne Chloe di Mozart si conclude con questi quattro versi: ma un'ombra nube offusca, ma un'oscura nube offusca il mio sguardo inebriato. A risentirci, cari amici, buon proseguimento d'ascolto, a domani, e un caro saluto da Paolo Terni. Lustchen einzuschauen, wie's im Herzen klopft und blüht, und ich halte dich und küsse deine Rosenwangen warm, liebes Mädchen, und ich schließe zitternd dich in meine Arm, in meine Arm, in Mädchen, und ich drücke dich an meinen Busen fest, dir im letzten Augenblick sterbend, sterbend nur dich von sich lässt, den berauschten Blick umschattet, eine düstere Wolke mir, eine düstere Thank you.